Firenze 1059. Madre mia, voglio essere addestrata per diventare una guerriera. Beatrice ripose i resoconti che stava controllando quando la figlia, ormai una splendida tredicenne, le gridò dalla soglia. Entra e parlami come si deve, Matilde. Non tollero che gridi certe cose dal corridoio, dove tutta la casa può ascoltare gli affari nostri. Beatrice sorrise per farle capire che non era davvero scontenta del suo tipico atteggiamento irruente. Non solo se lo aspettava, lo trovava affascinante. Siediti, mia cara. Ora, cos'è questa fantasia e come ti è venuta? Sto studiando la legge di successione. Matilde sedette di fronte alla madre su una panca, a un tavolo di legno fatto di travi grezze. Era un tavolo da pranzo, ma Beatrice preferiva lavorare lì perché c'era molto spazio e questo le permetteva di visionare tutti i rendiconti in un posto solo. Era diventata per necessità una accorta ed efficiente amministratrice dei beni, tanto del marito quanto della figlia. Beatrice rivolse a Matilde la sua completa attenzione. Era ovvio che era decisa a portare avanti l'argomento e quando la bambina era seria non accettava rifiuti da nessuno. Matilde continuò con l'abituale passione, e anche se la legge dice che una donna non può ereditare un patrimonio come quello che possediamo noi, spiega anche in modo specifico il perché. Dice che una donna non può effettuare il servizio militare e che i signori che controllano dei possedimenti devono essere capaci di combattere per difendere le loro terre. Perciò impugnerò la spada e dimostrerò che posso guidare un esercito. Se sono in grado di prestare servizio militare, e ho intenzione di esserlo proprio come qualsiasi guerriero maschio, se non addirittura di più, allora nella legge non vedo niente che possa ostacolare la mia eredità. In sella a un cavallo sono più abile di qualunque uomo della Toscana e Goffredo dice che capisco le strategie meglio di molti suoi consiglieri. Devo solo imparare a usare le armi per diventare un guerriero a tutti gli effetti, in grado di difendere i miei possedimenti. Beatrice annuì pensierosa. Se Matilde fosse nata maschio, senza dubbio sarebbe stata già sulla buona strada per diventare il più valoroso condottiero del suo tempo. Era un genio a livello strategico e aveva allietato il patrigno Goffredo con la sua abilità nel gioco degli scacchi e nei giochi militari che lui inventava per lei sulla carta. Le permetteva addirittura di assistere alle riunioni quando i vassalli della Toscana venivano a Firenze per portare i loro resoconti. Sebbene il duca di Lorena fosse generalmente considerato un uomo arcigno, aveva imparato ad amare entrambe quelle donne straordinarie e le trattava proprio come la sua famiglia. In Beatrice aveva scoperto una compagna valida e fidata con cui svolgere il complesso compito di governare un regno così vasto. Anche se il loro matrimonio per forza di cose non era stato consumato, avevano sviluppato una passione reciproca fondata dapprima sul rispetto, ma in seguito anche sull'affetto. In diversi documenti legali relativi alla sua vita, Beatrice si riferiva a Goffredo come al suo uomo. Il duca aveva un debole particolare per la forza e l'intelligenza di Matilde e la trattava come se fosse figlia sua, con altrettanto rispetto. Beatrice considerò tutto questo e replicò: «Il tuo patrigno è indulgente nei tuoi confronti, ma potrebbe non dare il suo consenso in questo caso. La Lorena è una terra di gran lunga più conservatrice della Toscana. Deve pensare alla sua reputazione in entrambi i luoghi». «Oh, mi darà il consenso, deve. E se insistiamo entrambe, non potrà fare altro che cedere. Siamo le donne più convincenti di tutta l'Europa. Non lo dice anche lui?» «Suppongo di sì. Vedo che hai escogitato bene il piano, il che non mi meraviglia. Dimmi, Isabella, sa che intendi essere addestrata per diventare una guerriera?» Matilde rispose di sì con il capo. Aveva discusso la sua strategia sia con Isabella sia con il maestro. «Non si oppongono a qualcosa che potrebbe assicurarmi la mia eredità e proteggere le nostre tradizioni. La mia forza è la loro forza. Sanno che la userò per preservare le tradizioni oltre che i miei diritti. E hanno la sensazione che Dio mi concederà una protezione speciale in battaglia. E hanno la sensazione che la provvidenza mi concederà una protezione speciale in battaglia». Beatrice annuì. Niente la stupiva più ormai quando si trattava di Matilde. Sebbene non fosse personalmente una seguace delle profezie che venivano venerate a Lucca, era certa che la figlia fosse nata con un destino speciale. Forse era davvero la bambina delle profezie di cui il popolo toscano vociferava sin dal propizio giorno della sua nascita. Di sicuro era unica per la sua forza, la sua bellezza e la sua fiorente saggezza. Beatrice era fiera di lei e sapeva che Goffredo sarebbe rimasto colpito dall'astuta padronanza della legge dimostrata da Matilde. Senza dubbio le aveva dato lui i documenti legali da studiare e non si sarebbe certo stupito della sua sagace interpretazione. E sia, crescerò una figlia guerriera se è questo che desideri, e parlerò con Goffredo questa sera, non appena sarà di ritorno. Dovrà trovarti un maestro d'armi adeguato e compagni di allenamento che... Matilde la interruppe. Che facciano cosa? Che siano indulgenti con me? Io non credo, mamma. Qual è il vantaggio di essere addestrata all'uso delle armi se è solo contro ragazzi deboli a cui è stato detto di essere gentili con me? Voglio gli uomini migliori della Toscana, i più temprati, niente di meno. Ma certo, la madre era comprensibilmente preoccupata che la spavalderia di Matilde potesse metterla nei guai, ma era altrettanto certa che la ragazza l'avrebbe spuntata, come succedeva sempre. Ed è quello che avrai, se Goffredo ti darà il suo consenso. Grazie. Matilde si alzò, inchinandosi in modo aggraziato e riverente, e... Mamma, lo faccio anche per te. Nessuno mai prenderà più qualcosa che ci appartiene. E mai più un re tedesco deprederà la Toscana, ruberà le nostre risorse e terrorizzerà la nostra gente. Mai più. Beatrice guardò la splendida giovane che aveva di fronte. La conformazione della mascella della figlia, la vera guerriera toscana, le ricordò così tanto Bonifacio che le vennero le lacrime agli occhi. Lui sarebbe orgoglioso di te, Matilde. Anche gli occhi di Matilde si inumidirono. Non passava giorno senza che sentisse la mancanza di suo padre. In realtà parlava con lui tutte le sere quando recitava le sue preghiere. Lui mi vede, mamma, lo so, e sarà fiero di me. Sarebbe stato un errore da parte degli uomini d'Europa supporre che quella minuta ed esile ragazza non sarebbe riuscita a difendere ciò che le spettava di diritto. Goffredo di Lorena non commise quell'errore, acconsentì alla richiesta di Matilde con sorprendente prontezza. E supervisionò personalmente la selezione del suo istruttore militare di base. Conosceva proprio l'uomo che faceva il caso suo. Il coltello colpì il bersaglio esattamente nel centro e con una forza tale da far tremare l'albero. Il terrificante signore della guerra che aveva scagliato l'arma si voltò verso Goffredo di Lorena con tutta la sua furia. Ti sembro forse una bambina piagnucolona? In quel momento, con delle 100 battaglie, non sarebbe potuto sembrare più diverso da una bambinaia. Si voltò verso Goffredo di Lorena con tutta la sua furia. Ti sembro forse una bambinaia piagnucolona? In quel momento, con delle 100 battaglie, non sarebbe potuto sembrare più diverso da una bambinaia. Piagnucolona o no? Si diresse a grandi passi verso il bersaglio per recuperare il coltello, muovendosi con una grazia sorprendente data la sua mole gigantesca. Il sole era alto e il suo ampio petto era imperlato di sudore, i capelli lunghi, di uno straordinario colore fulvo, uguale a quello della barba, erano trattenuti alla nuca da un cinturino di cuoio, gli davano le sembianze di un dio celtico uscito da un'antica leggenda. Questo gigante, infatti, proveniva dalla terra magica e brumosa dei Celti ed era giunto a Firenze parecchi anni prima, spinto da motivi che preferiva non rivelare, per unirsi a un drappello di mercenari. Niente affatto, con, replicò Goffredo serissimo. Considerava quell'uomo uno dei suoi guerrieri più devoti e uno degli amici più fidati. Durante il loro primo colloquio, con era stato guardingo nel raccontare la sua storia personale, ma Goffredo sapeva giudicare il carattere di un guerriero e in lui, al di là della forza bruta, era riuscito a scorgere intelligenza e qualcosa di ancora più prezioso. Nei 3 anni successivi il duca aveva scoperto risvolti eccezionali nell'uomo che combatteva al suo fianco con tanta forza e fedeltà. Sapeva anche che Con era troppo orgoglioso e brusco per acconsentire subito ad addestrare Matilde e di sicuro non lo avrebbe fatto se c'erano i suoi uomini nei paraggi come in quel momento. Sarebbe stata una bella lotta, ma era certo che l'avrebbe vinta. Aveva notato che il gigante celtico aveva un debole per la ragazza e spesso faceva commenti ammirati sull'aspetto sulle sue eccezionali doti di amazzone e sul suo fascino superbo quando in groppa un destriero cavalcava nel vento. Mentre strappava l'arma dal bersaglio, Con lanciò a Goffredo un'occhiataccia. Abbassò la voce quando si rivolse al duca. Questa cosa mi renderà lo zimbello di tutti gli altri uomini, mi rifiuto di farlo. Sai bene come gestire gli altri uomini, mi pare. Ma poi Goffredo annuì con aria più grave. Capisco le tue preoccupazioni, Con, ma ho bisogno di te. Sei il miglior guerriero e stratega di tutta la Toscana. Questo non è un capriccio per Matilde. È tremendamente seria riguardo al suo addestramento. È della massima importanza che sia preparata il più possibile alla guerra vera. Non posso rischiare di perderla sul campo perché è stata male addestrata. Devasterebbe sua madre, metterebbe a repentaglio il futuro della Toscana e ucciderebbe anche me. Con grugnì mentre si infilava il coltello nel cinturone. Goffredo posò una mano sulla spalla del guerriero con fare amichevole. A proposito, sarà un incarico molto ben retribuito e se questo non basta a smuoverti, vedila così. Goffredo era pronto a usare tutta la sua astuzia per conquistare il consenso di Con, pertanto fece leva sull'amore per il suo patrimonio celtico. Quando Matilde sarà la regina guerriera più leggendaria che sia mai vissuta, tu verrai ricordato come il grande uomo che l'ha addestrata. Abboccò. Un uomo con quel retaggio non poteva resistere a una promessa di ricchezza e di onore leggendario. Goffredo poteva vedere dai grandi occhi del Celta che in effetti l'idea gli era gradita e chiuse l'affare. E poi ci vuole una selvaggia creatura fulva per capirne un'altra, e non appena Matilde sarà più grande, quando cavalcherete fianco a fianco in battaglia, sembrerete due feroci fratelli. I vostri nemici tremeranno al solo vedervi, e i cronisti scriveranno delle vostre gesta in eterno. Con un ultimo grugnito, Con continuò la sua manifestazione di disprezzo e passò accanto al duca, dandogli uno spintone, deciso a non rivelare a nessuno quanto fosse segretamente deliziato da quell'incarico. Si accomiatò, gridando affinché lo sentissero anche gli altri uomini che potevano aver origliato. Bene, ma sarà meglio che la tua concezione dell'assai ben retribuito coincida con la mia. Vieni, piccola Boudica. Anche se Con era seduto su uno sgabello con la schiena rivolta verso la porta, aveva l'udito fino e i sensi altamente sviluppati del più esperto signore della guerra. Riconoscere chi gli arrivava alle spalle era una dote che determinava la vita o la morte sul campo di battaglia. Matilde deglutì mentre entrava nella camera del soldato. Un'armeria adiacente alle stalle. Spade e lance erano appese alle pareti mentre asce e coltelli più piccoli erano in bella mostra su un rozzo tavolo. Sebbene in cuor suo fosse emozionata per il fatto che Goffredo l'avesse presa tanto sul serio da affidare il suo addestramento al più incallito signore della guerra, la reputazione di impavido in battaglia di cui godeva quel gigante la metteva a disagio. Matilde non sapeva che cosa aspettarsi da lui, ma era decisa a non lasciarsi intimidire. Con indicò il tavolo al quale era seduto, fissando la scacchiera. Non l'aveva ancora guardata. Che mossa faresti qui se fossi me? Questa? Indicò il cavallo nero. O quella? Puntò il dito verso l'alfiere nero. Matilde studiò la scacchiera per un momento prima di rispondere. Nessuna delle due. Per la prima volta Con levò lo sguardo, ritrovandosi a faccia con la ragazza che sarebbe diventata la sua protetta, e restò senza fiato. L'aveva vista da lontano cavalcare insieme a Goffredo, ma nel trovarsela a quella breve distanza fu colto del tutto alla sprovvista. Persino con i modesti indumenti da addestramento, Matilde era assolutamente stupenda, proprio come se fosse stata agghindata con seta e gioielli. Forse la cosa avrebbe giocato a suo favore in battaglia, perché gli uomini sarebbero rimasti disarmati dal suo aspetto. Avrebbe dovuto escogitare tutti i modi possibili per darle vantaggio in guerra, poiché la sua statura minuta sarebbe stata un problema. Che significa nessuna delle due? Sono entrambe buone mosse. Matilde annuì, avvicinandosi alla scacchiera. Sì, ma entrambe sono ovvie, forniscono solo un sollievo momentaneo. Se guardi avanti alle prossime 3 o 4 mosse, vedrai che nessuna di queste due ti darà alcun vantaggio a lungo andare. Io cercherei di prendere la torre. Ci vorrà più tempo, ma ti porterà a un passo dal re bianco. Scacco in 6 mosse. Se il tuo avversario è inesperto, scacco matto. Il volto del Celta fu squarciato da un sorriso. Non mi deludi, ragazza. E hai superato il tuo primo esame. Ora siediti e giochiamo una vera e propria partita. Matilde esitò. Che significa siediti? Con alzò le spalle. Siediti, ha forse un altro significato che io ignoro? Matilde ribatté al suo sarcasmo. No, ma non sono qui per giocare a scacchi. Quello posso farlo con i vecchi al castello. Sono qui per essere addestrata all'uso delle armi. Con la sbalordì quando balzò in piedi con uno scatto fulmineo sbattendo lo sgabello dall'altra parte della stanza. Le afferrò il polso con violenza e glielo girò bruscamente dietro la schiena finché Matilde non gridò di dolore. Lo mantenne così per farle capire chi comandava. Matilde era senza fiato, ma non si divincolò mentre il guerriero dava la prima lezione alla sua allieva novellina. Dunque, ragazzina, avrei potuto anche spezzarti il polso. Sei minuta e hai le ossa sottili. L'avversario medio che affronterai in battaglia sarà molto più simile a me che a te, come corporatura. Sarà un soldato temprato e un uomo a cui non importerà se sei una donna e non ti tratterà diversamente dagli altri uomini che avrà intenzione di massacrare, o peggio, gli importerà che sei una donna, il che significa che ti terrà in vita abbastanza da farti rimpiangere di non essere stata uccisa. Il punto è, mia piccola Mazzone, che a causa della tua statura e del tuo sesso non puoi combattere con gli uomini su un campo di battaglia ad armi pari. Se per esempio sei stata disarcionata, questo significa che nel combattimento. Questo significa che nel combattimento corpo a corpo dovrai essere più astuta e più veloce di chiunque ti troverai ad affrontare. Con a quel punto la lascio andare con delicatezza. Perciò, prima di cominciare l'addestramento con le armi, voglio vedere come funziona la tua testa. Indicò la scacchiera inchinandosi in modo teatrale. Dopo di voi, mia signora. Matilde lo batté. Ma doveva ammettere che non era stata la sconfitta schiacciante che infliggeva di solito a chi sedeva dall'altra parte della scacchiera. Con era uno dei rari avversari che le davano filo da torcere. Era un buon inizio per un rapporto che doveva essere necessariamente basato sul rispetto. Nel corso della sua formazione, Matilde avrebbe imparato che l'intelletto di Con era ammirevole tanto quanto la sua destrezza con le armi. Anche se era muto come un pesce quando gli venivano fatte domande sul suo passato, era chiaro che era un cittadino del mondo e anche uno ben istruito. Dopo la partita, Con scelse una delle spade più piccole e leggere e gliela lanciò senza preavviso per vedere come la prendeva. Fu colpito dalla velocità e dalla grazia dei suoi riflessi. La prima lezione avrebbe riguardato le regole fondamentali per maneggiare un'arma e quelle qualità avrebbero determinato il suo successo. Matilde aveva dato a intendere che un giorno avrebbe voluto portare in battaglia la spada di Bonifacio, ma per il momento quell'arma era alta quanto lei. Sarebbe dovuta crescere un altro po' prima. Mentre si dirigevano verso il campo per le esercitazioni nella calura del pomeriggio toscano, Matilde gli chiese: Chi è Budica? Budica? Sì, quando sono entrata nell'armeria mi hai detto: Vieni, piccola Budica. Ah, non sai chi è Budica? Beh, come potresti, ma dovresti, ascolta allora. Perché la storia di grandi capi militari sarà cruciale per la tua istruzione. Con indicò una panca al margine del campo per le esercitazioni ricavata dal tronco di un albero caduto. Appena cominciò a narrarle la leggenda di Budica, l'innato cantastorie che si nascondeva in lui, uscì allo scoperto. Prima di tutto devi conoscere quel grande popolo che erano e sono i Celti. C'è un tempo, mia. C'era un tempo, mia piccola Mazzone, in cui le tribù celti che occupavano gran parte dell'Europa, all'epoca, venivano chiamati Keltoi e talvolta Galli, da cui prende il nome la Gallia. E qui in Italia, spero che tu lo sappia, i Celti Liguri si insediarono in Toscana, dove, tra le altre cose, fondarono la città sacra di Lucca. I Celti avevano una passione smisurata per i doni della natura. Una passione smisurata per i doni della natura e riuscivano ad avvertire la presenza del divino nella terra. Fu in questo modo che decisero dove stabilirsi e dove costruire i luoghi di culto. Lucca è uno di questi luoghi. Ce n'è un altro in Francia, un posto chiamato Chartres, così sacro che divenne il centro di tutte le cerimonie di iniziazione spirituale per le tribù celtiche in Europa. Gli occhi gli si velarono leggermente per un istante. Chartres. È un luogo di una bellezza e di un potere ineguagliabili. Di una bellezza e un potere ineguagliabili. Matilde drizzò la schiena quando sentì nominare Chartres. Isabella mi ha parlato di Chartres. Sua madre veniva da lì, da un posto chiamato La Beauce. Con annuì. La Beauce è la regione. Chartres è la città situata nel cuore di quella regione. C'è una grande scuola lì. Matilde esitò. Non conosceva ancora abbastanza bene quel gigante enigmatico per poter parlare apertamente della sua fede spirituale, soprattutto perché in quel periodo era considerata pericolosamente eretica dalla Chiesa ortodossa, ma Isabella le aveva detto che la scuola di Chartres insegnava dal libro dell'amore. Aspettò che lui rivelasse spontaneamente di conoscere i suoi confratelli eretici della Francia. Rimase delusa. Non era una noce che si schiacciava facilmente, si limitò ad annuire in modo evasivo. Infatti, Matilde fece un altro tentativo. Ci sei mai stato? Con adesso rivolse la sua totale attenzione all'allieva e assunse il comando della conversazione. Sì, e questa è una storia che ti racconterò un altro giorno. La prima regola per qualunque guerriero è non distrarsi quando si sta affrontando una questione. E la nostra questione è la storia dei Celti di Boudica, perciò torniamo a noi. Matilde annuì, senza aprir bocca, e lasciò che continuasse senza porgli ulteriori domande, ma le aveva rivelato qualcosa in quel breve scambio su Chartres, qualcosa di cui era decisa a capire di più in futuro. Le tribù celtiche, riprese Con, incontrarono grande resistenza da parte di molti avversari, ma nessuno minacciò tanto la loro sopravvivenza quanto i romani. E sebbene ciò fosse vero per tutta l'Europa, lo era in modo particolare per i territori al di là della Manica, ed era lì che nel primo secolo viveva Boudica, la regina guerriera, una donna della tribù degli Iceni. Dopo che i romani invasero la sua terra, lei combatté e guidò personalmente un esercito contro le legioni romane. Anche se uscì vittoriosa dalla prima battaglia, i romani decisero di punirla per la sua audacia, rapendo le ragazze della sua tribù, comprese le sue due figlie, e abbandonandole alle voglie dei legionari più incalliti. Con si fermò un attimo ricordandosi che aveva davanti una ragazzina ancora innocente. Non c'era bisogno che le raccontasse i vividi dettagli dello stupro di massa inflitto alle figlie di Boudica e alle altre ragazze icene. Ti basti sapere che subirono violenti maltrattamenti e che alcune furono uccise. In qualità di loro madre e di regina, Boudica era sempre più intenzionata a ottenere giustizia, così radunò un esercito di proporzioni mai viste. Attaccò i romani, decimò le legioni che avevano invaso l'Anglia orientale, ma non si fermò lì. Era così infervorata dalla sofferenza e dall'ingiustizia subite dal suo popolo che scese addirittura fino alla grande città di Londinium. L'assedio a quella sofisticata roccaforte romana fu il più brutale mai registrato nella storia. Ma fu anche un esempio di strategia superiore che esamineremo nelle prossime lezioni. Ma questo è quello che devi sapere prima di tutto su Boudica, oltre al fatto che viene raffigurata dagli artisti con i capelli del nostro stesso colore. Le strizzò l'occhio a quel punto, sollevandole una treccia per sottolineare l'anomalia fisica che contrassegna la loro parentela spirituale. Matilde ascoltava rapita. Non c'era niente che amasse di più di una bella storia raccontata con passione. Mentre cercava di radunare i rinforzi, Boudica imparò che gli Iceni erano visti come barbari dai romani. Di conseguenza alcuni degli alleati di cui aveva bisogno esitarono a unirsi a lei. Vedi, i Celti non credevano nel mettere per iscritto i loro insegnamenti sacri o le loro storie o nel condividerli con gli estranei, il che li rendeva pericolosamente misteriosi agli occhi di molti. I romani, d'altro canto, usavano la scrittura con abilità e ottenevano vantaggi in guerra attraverso l'arte della propaganda, e avevano fatto proprio questo nella loro guerra contro Boudica, riferendosi agli Iceni e alle altre tribù celtiche come a mostri incivili che sacrificavano i bambini ai loro dei pagani. Ovviamente questo non era vero perché i Celti veneravano ogni forma di vita nei loro insegnamenti sacri, ma facendo credere alla gente che stavano ripulendo il mondo da una mostruosa razza di animali, i romani avevano reso in qualche modo giustificabile massacrare tutti i Celti che volevano. Così Boudica, nella sua indignazione, decise che avrebbe combattuto contro i romani con le loro stesse armi. In aggiunta alla sua potenza militare, avrebbe assoldato degli scribi per raccontare quello che i legionari avevano fatto alle ragazze icene per dimostrare chi erano i veri barbari in quella guerra. A quel punto adottò un grido di guerra che avrebbe continuato a usare per tutto il resto della sua vita. Si interruppe per vedere con quanta attenzione stesse ascoltando Matilde. Non fu deluso, non si era lasciata sfuggire neanche una parola ed era impaziente di sentire quale fosse stato il grido di guerra della coraggiosa e vendicativa Boudica. Dato che Con non continuava, lo incoraggiò. Allora, qual era? Il gigante le sorrise. Uno che credo apprezzerai. Boudica in battaglia portava uno stendardo su cui era scritto la verità contro il mondo. Lasciò che quel motto aleggiasse nell'aria. La verità contro il mondo. Matilde era senza parole. Era la cosa più bella che avesse mai sentito. Una regina guerriera che combatteva per la giustizia contro un mastodontico avversario, portando uno stendardo che esaltava la verità. Quando finalmente parlò, lo fece con grande risolutezza. Con, devi insegnarmi tutte le strategie di Boudica. Il gigante fulvo balzò in piedi con l'agilità di una pantera. Bene, allora andiamo, mia piccola Amazzone. Boudica non ha sconfitto i romani standosene seduta su un tronco. Così cominciò l'addestramento militare di Matilde con un maestro d'armi che sarebbe diventato il suo più accanito protettore, ma anche uno dei suoi migliori insegnanti, dentro e fuori il campo di battaglia. Come per ogni altra cosa che si metteva in testa, Matilde divenne in poco tempo capace di maneggiare un'arma al punto da essere letale. Quello che le mancava in termini di statura e muscoli lo compensava con l'innata agilità e con l'astuzia superiore sul campo di battaglia, per lo più frutto dell'esperto addestramento di Con, che conosceva bene la natura della sua protetta. All'età di 16 anni, la contessa di Canosse era già capacissima di guidare un esercito, anzi, non vedeva l'ora di farlo.